Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli del Consiglio Direttivo della BCE. Vi ha parlato un attimo fa Simone Spezia, dunque inutile ripetere, poi naturalmente andremo negli sviluppi nel corso dei programmi pomeridiani. Invece io vi parlo di Turchia. Ankara oggi è tornata sul tema dell'Unione e lo ha fatto per dire che l'ingresso nell'Unione Europea, a suo avviso, era e rimane un obiettivo strategico per la Turchia, nonostante appunto la situazione. Così l'ambasciatore turco Aydin Adnan Sezgin: era il nostro obiettivo strategico, lo rimane, ha spiegato il diplomatico. Vogliamo accelerare il negoziato e non è un desiderio che appartiene al governo ma a tutta la società turca. Ovviamente la questione della pena di morte, ecco, reintrodurre la pena di morte, argomento di cui si è parlato sulla scia del fallito golpe, potrebbe però completamente frenare, bloccare addirittura le ambizioni. E lui risponde: ho cercato di tracciare un quadro di quello che è successo e ripeto che ci sono 145 morti tra i civili e non per una attentato dell'ISIS o del PKK, così dice il diplomatico turco. I militari hanno usato le armi comprate coi soldi delle tasse dei cittadini turchi per colpire gli stessi cittadini. Questo ha causato un forte shock nella popolazione che ha chiesto misure straordinarie. E poi, insomma, conclude dicendo: staremo a vedere. La politica, parlando di pena di morte, ha solo risposto a una domanda che viene dalla gente. Quindi due notizie: quella che appunto Ankara non intende considerare chiuso il percorso, e secondo, che probabilmente il dibattito sulla reintroduzione della pena di morte, che non è più applicata in Turchia dal 1985 e che addirittura dal nuovo millennio non fa parte più del diritto appunto turco, potrebbe essere l'oggetto appunto di un forte dibattito proprio in queste ore. Cambiamo tema, la Gran Bretagna che dovrebbe avviare rapidamente il processo per l'uscita dall'Unione Europea il più presto possibile, così il presidente francese François Hollande, il premier irlandese Enda Kenny al termine di un colloquio a Dublino. Intanto, dopo l'incontro di ieri con Angela Merkel, la premier britannica May è da Hollande per discutere appunto condizioni e tempi. All'indomani dell'annuncio sulla rinuncia del semestre di presidenza del Consiglio europeo nel 2017 e dell'incontro con la cancelliera Angela Merkel, seconda visita internazionale per il primo ministro britannico Theresa May, che oggi è a Parigi dal presidente francese François Hollande per discutere condizioni e tempi della Brexit. Non vogliamo abbandonare i nostri amici europei, ha ripetuto ieri la May, ribadendo che Londra intende rafforzare le forti relazioni già esistenti con i paesi dell'Unione, prima di tutto dal punto di vista economico e della sicurezza. Nessuna fretta per quello che viene definito il long goodbye di Londra all'Europa. Il Regno Unito, ha ribadito la premier britannica, avrà bisogno di tempo per preparare questa tappa, quindi l'articolo 50 del Trattato di Lisbona non sarà attivato prima della fine di quest'anno. Una volta depositata la richiesta, i trattati europei prevedono che i negoziati si concludano in un lasso di tempo massimo di 2 anni, ciò che fa prevedere un'uscita effettiva della Gran Bretagna dall'Unione Europea nel 2019. È nell'interesse di tutti che la Gran Bretagna chieda quest'uscita quando avrà una posizione negoziale ben definita, sottolineato del resto da parte sua Angela Merkel. Dalla cancelliera, contraria fin da subito alla linea dura dell'Unione, May ha ottenuto più tempo. Oggi tocca a Hollande. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, oggi con questo è tutto. Adesso passo la linea con molto piacere al nostro Carlo Genta, che torna dopo qualche giorno ai box e quindi ritorna a raccontarci naturalmente un momento sportivo molto importante. Ormai manca poco alla grande manifestazione olimpica. Domani, pensate, l'appuntamento a Mosca era per la squadra olimpica, i Giardini di Alessandro, proprio nel cuore del Cremlino. Beh, pochi istanti fa tutto cancellato. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.